Perfetto Giorno di Simone Spezia. Silvio Berlusconi è ricoverato per uno scompenso cardiaco. Accertamenti, ma non sarebbe previsto un intervento. Amministrative, i numeri definitivi: 111 comuni al ballottaggio, 5 Stelle in corsa in 19, PD in 83, centrodestra in 54. Su Roma parla Totti: io a favore delle Olimpiadi e di chi è a favore delle Olimpiadi. Parla Marchini: staremo con chi condivide il programma. L'Istat rilancia: l'allarme sulla crescita è moderata ma rallenterà a breve, pesa il calo della fiducia. Voleva partire per la Siria, ha fermato un'italiana di poco più di 30 anni a Brescia, espulso il marito tunisino. E il terrorismo torna a colpire in Turchia, attaccato un mezzo della polizia, almeno 11 le vittime. Ordinanza anti-alcol contro la movida a Rimini: vietato vendere bevande fredde, multe fino a 500 euro, ne parleremo con l'assessore. Platì, provincia di Reggio Calabria, il primo sindaco dopo 10 anni di commissari, ma per l'antimafia è il parente di un boss. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti: effettogiorno@radio24.it per scriverci. Durante la trasmissione c'è il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. C'è il nostro canale Telegram, nel quale vi diamo anticipazioni ogni giorno: telegram.me/effettogiorno. In apertura dunque le notizie che arrivano da Milano, dove Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa mattina alle 9:30 al San Raffaele per una serie di controlli già programmati. In realtà l'ex premier qualche giorno fa era stato riscontrato uno scompenso cardiaco e per questo si era deciso di effettuare un ricovero di qualche giorno per fare i dovuti accertamenti. Lo stesso Berlusconi tra l'altro lo aveva annunciato nella giornata di ieri, quindi non sembra al momento un ricovero urgente. Vi sapremo dare dettagli appena ne avremo. Intanto apriamo occupandoci di amministrative, perché si vanno delineando un po' di schieramenti per il ballottaggio. È ancora una giornata di dichiarazioni: parlano Totti, parla Antonio Bassolino, parla Alfio Marchini. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, c'è tensione nel PD dopo la delusione del primo turno alle comunali. Il premier Matteo Renzi si è detto insoddisfatto del risultato e resta alta la tensione con la minoranza, per quanto però avverta che il voto di domenica non è nazionale e che i conti nel PD si faranno fra 15 giorni. La novità a Roma, l'hai detto tu nei titoli, viene dal capitano della città Francesco Totti, che appoggerà Roberto Giachetti al ballottaggio. Perché? Perché avere una visione lungimirante per il futuro di Roma ma significa perseguire obiettivi importanti, dice il pupone. Tra questi c'è certamente la candidatura alle Olimpiadi. Nel PD intanto continua l'analisi del voto per il vicepresidente commissario a Roma Matteo Orfini. Al ballottaggio ci siamo arrivati contro ogni pronostico. Certo, non sottovaluto il buon risultato di Virginia Raggi, ma la storia antica e recente è piena di rimonte al secondo turno. I più guardano poi ai voti di Alfio Marchini, l'indipendente appoggiato nel primo turno da Silvio Berlusconi, che è pronto ad incontrare sia Virginia Raggi sia Roberto Giachetti e starà con chi condivide il suo programma. Nel centrodestra invece Guido Bertolaso accusa del crollo Matteo Salvini. Gli elettori del centrodestra sono rimasti disorientati dal ritiro della mia candidatura a partita già iniziata, dice l'ex capo della Protezione Civile. Intanto il Movimento 5 Stelle, forte dei risultati a Roma e a Torino, pensa al governo e si sottolinea proprio dai grillini che non si deve parlare di voto di protesta, perché ormai i cittadini percepiscono il Movimento 5 Stelle come forza di governo. A te Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo ad un quadro sui numeri. I risultati definitivi del primo turno disegnano un quadro con luci e ombre per le diverse forze politiche. Nei 25 comuni capoluoghi di provincia dove si è votato, i sindaci eletti al primo turno sono 4, 3 del centro-sinistra, Cagliari, Rimini e Salerno, e uno del centro-destra, Cosenza. Negli altri capoluoghi si va invece al ballottaggio anche in 111 dei 132 comuni con più di 15.000 abitanti interessati da questa tornata elettorale. Si va al secondo turno. Il PD è in corsa con 83 candidati, il centrodestra con 54, i 5 Stelle con 19. I sindaci eletti al primo turno sono invece 11 per il centrosinistra, 6 per il centrodestra, 3 per liste civiche e 1 per la Lega. A livello di voti su base nazionale, infine, infine, rispetto alle comunali del 2011, il centrosinistra scende dal 41,4 al 34,3%, il centrodestra dal 36,7 al 29,5, mentre il Movimento 5 Stelle sale dal 6,1 al 21,4%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tutti i dettagli, questi numeri con un'analisi del voto naturalmente più estesa e molti altri numeri sono sul Sole 24 Ore oggi in edicola, in un'analisi curata dal professor Roberto Dalimonte. Facciamo anche un punto sui municipi nelle grandi città con Daniele Biacchessi. A Milano un tempo si chiamavano consigli di zona, oggi prendono nome di municipi, proprio come a Roma. Sono organismi amministrativi di importanza rilevante perché governano i problemi del territorio, dei quartieri, dove il comune centrale stenta ad offrire risposte. Ebbene, domenica a Milano 5 su 9 municipi per 4 anni in mano al centro-sinistra durante l'esperienza della giunta Pisapia sono passati al centro-destra. Il PD chiede il riconteggio, ma la debacle è notevole. In caso di vittoria secondo turno di Beppe Sala, il neo sindaco si troverebbe dunque con una maggioranza degli organi periferici contrari ai suoi provvedimenti, con una situazione di piena ingovernabilità politica. La situazione si ripete anche a Roma, dove l'istituzione dei municipi, quindi di organismi più forti dei consigli di zona, fa parte della storia degli ultimi 40 anni della città. Il boom del Movimento 5 Stelle ha determinato la vittoria della Raggi in tutti i municipi tranne due ancora in mano al PD. Ciò vuol dire che nelle periferie di Milano e Roma, per ragioni diverse, i cittadini hanno girato le spalle al partito di maggioranza relativa, il cui radicamento in quei territori era stato sempre molto forte. E siamo alle anticipazioni dell'Istat sull'andamento dell'economia. I consumi tengono, ma il clima di fiducia è peggiorato, soprattutto tra le imprese, e torna dunque a frenare la crescita della nostra economia. Dopo lo sprint del primo trimestre, il PIL italiano rallenta. A breve termine il ritmo resta moderato, scrive l'Istat nella sua nota mensile. Previsioni che arrivano dopo che ieri Banca Italia aveva abbassato la sua stima di crescita del PIL 2016 a 1,1% dall'1,5%, allineandosi a quanto previsto anche dal Fondo Monetario Internazionale. L'Istituto di Statistica sottolinea il contributo positivo della domanda interna sul PIL. Il principale motore della crescita, infatti, costituito dai consumi, ai quali si accompagna anche un miglioramento degli investimenti. Ma, scrive ancora l'Istituto, in presenza di alcuni segnali di debolezza delle attese delle imprese e degli ordinativi della manifattura, l'indicatore segna un'ulteriore discesa. In particolare, per quanto riguarda la spesa delle famiglie italiane, cresce sì, ma nell'ultimo mese anche qui il clima di fiducia peggiora. L'occupazione invece migliora nei servizi, ma peggiora altrove. Infine l'inflazione dovrebbe rimanere in territorio negativo anche nei mesi estivi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: è stata fermata a Brescia una donna che voleva partire per andare a combattere in Siria. Voleva partire per la Siria, ora è indagata per arruolamento con finalità di terrorismo dalla procura di Brescia. È la storia di una donna bresciana, figlia di un imprenditore, sposatasi con un tunisino nel 2010 con rito islamico, un matrimonio poi confermato con rito civile nel 2015. Convertitasi all'Islam, la trentenne portava il niqab completo, usciva solo raramente. «Allah, ti chiedo una morte nel tuo sentiero», scriveva sulla sua bacheca Facebook. Il questore di Brescia, Vincenzo Ciarambino. Si era totalmente radicalizzata anche negli aspetti esteriori. Tutte le attività che erano state condotte nei suoi confronti avevano dimostrato anche l'assunto ideologico. Aveva espresso in rete la sua volontà al martirio e anche la sua volontà di spostarsi nei territori degli scenari di guerra. Un progetto, quello di partire per la Siria, coltivato con il marito, anch'esso trentenne, che ora sarà espulso dall'Italia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I miliziani dell'ISIS avrebbero bruciate vive in mezzo ad una piazza di Mosul 19 ragazze curde che si erano rifiutate di divenire schiave sessuali dei combattenti jihadisti. A riferirlo è l'agenzia di notizie ARA, la Kurdish News Agency, ripresa dai media iraniani. Le giovani donne sarebbero state chiuse in gabbia di ferro, in una gabbia di ferro portate in una piazza della roccaforte irachena del Califfato e date alle fiamme davanti a centinaia di presenti. E intanto il terrorismo torna a colpire la Turchia. Marco Barbonaglia in diretta da Istanbul. Marco. Buongiorno, sì, erano quasi 3 mesi che Istanbul non veniva colpita da un attentato di questa entità, dal 19 marzo precisamente, quando un terrorista si era fatto esplodere in Istiklal Caddesi, vicino a Piazza Taksim, all'epoca si disse dell'ISIS. Ma questo attentato è perfino più grosso degli altri che hanno colpito Istanbul, si parla di 11 morti, 4 civili e 7 agenti di polizia, 36 feriti, 3 dei quali almeno molto gravi. Un'autobomba è stata fatta esplodere, secondo la ricostruzione degli inquirenti, al passaggio di un pullman questa mattina verso le 8.30 nel distretto di Vezne-Giler, vicino alla fermata della metropolitana. Per intenderci, vicino alla zona del Gran Bazar, una zona turistica piena di alberghi e di ristoranti, infatti si vedono tuttora le vetrate infrante di hotel e di negozi qua tutto attorno, mentre l'area è stata completamente sigillata. Dopo l'esplosione la polizia avrebbe anche sparato alcuni colpi, secondo alcuni testimoni, ma non c'è certezza di questo. Va detto che dall'inizio dell'anno sono almeno 200 i morti in Turchia in 6 attentati. Il presidente Erdogan nel frattempo ha visitato i feriti in ospedale e ha detto che la Turchia continuerà a combattere il terrorismo fino alla fine. In questo caso le modalità dell'attentato fanno comunque pensare al PKK, che a febbraio, il febbraio scorso, aveva firmato un attacco simile contro un convoglio militare ad Ankara. Comunque, ad ogni modo, la Turchia, che prova a tornare ogni volta alla normalità, sembra aver fatto un balzo indietro agli anni più bui, a periodi che parevano dimenticati, con il paese che pareva per la prima volta pronto a voltare definitivamente pagina. Da Istanbul è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Marco Barbonaglia per questo aggiornamento e sentiamo che cosa ci dicono oggi le vicende dei migranti. Il 22 marzo 2013 la signora Selina Afum, di nazionalità ghanese, viaggiava su un autobus sotto la Manica ed è stata fermata dalla polizia. Dal controllo della sua borsetta è nato un caso sul quale oggi si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea, destinato a far discutere. La signora Afum infatti era priva di documenti e la polizia voleva arrestarla. Dalla sua opposizione sono nate diverse cause legali, i giudici francesi si sono espressi e alla fine hanno chiesto di esprimersi alla Corte di Giustizia Europea, che ha emesso infine una sentenza che chiarisce che è la direttiva rimpatri a impedire che un cittadino di un paese non europeo possa essere recluso per il solo motivo del suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato. E mentre la Corte di Giustizia Europea in pratica boccia la concezione di hotspot come centri di detenzione, in Grecia hanno rifatto i conti. Il numero di migranti ospitati nel paese è più alto in un giorno di 5.700 unità. Non per un massiccio arrivo sulle coste elleniche, ma per un nuovo conteggio fatto dalle autorità, che include anche coloro che si trovano in alloggi affittati dall'UNHCR. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi la Commissione europea propone un piano nei paesi africani per l'emergenza flussi. Per risolvere le cause profonde delle migrazioni era già stato lanciato un trust fund di 20 milioni di euro guidato dall'Italia, che ha avviato dei progetti in Etiopia e in Niger. Valentina Furlanetto ha intervistato Giampaolo Cantini, che è il direttore generale della cooperazione allo sviluppo della Farnesina. La cooperazione italiana lavora nell'Africa subsahariana in 9 paesi prioritari che coincidono in larga parte anche con quelli che sono stati individuati come prioritari al vertice tra l'Unione Europea e l'Africa, che si è tenuta alla Valletta nel novembre scorso, dove è stato istituito uno strumento finanziario dell'Unione Europea molto importante, che è appunto il Trust Fund dedicato ad affrontare le cause di fondo delle migrazioni. Che tempi ci vogliono per vedere qualche effetto? Beh, diciamo, questi sono progetti che naturalmente hanno un impatto e intendono avere un impatto sul lungo periodo. Dobbiamo valutare gli effetti almeno, diciamo, su 1 o 2 anni. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti. I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. Siamo sull'orlo di un momento storico senza precedenti, così Hillary Clinton ha commentato dalla California, dove oggi si svolgerà l'ultimo Super Tuesday delle primarie democratiche. La conquista del numero di delegati necessari per la sua nomination, sarà quindi lei la prima donna della storia americana a partecipare all'Election Day. La ex First Lady ha superato infatti la soglia dei 2383 tra delegati e superdelegati che la voteranno alla convention di Filadelfia di fine luglio. La sfida per la Casa Bianca sarà perciò tra Clinton e il repubblicano Donald Trump. E siamo al calcio. Gli azzurri partono oggi per la Francia e ieri sera l'ultimo test, Carlo Genta, l'amichevole con la Finlandia, no? Sì, viaggio non lunghissimo in questo caso, francamente. Signora. Da Verona, tra l'altro, no? Sì, da Verona si va in casa dei nostri amici, cugini transalpini. E si va con crescente fiducia, perché ieri sera 2-0 alla Finlandia, per quel che può contare, i gol di Candreva e di De Rossi, una squadra che sembra crescere, ma soprattutto sembra guadagnare ogni giorno appeal sul piano dei consensi. Quindi questa è l'Italia che va verso gli europei, che va verso la Francia. Ieri sera si è visto qualcosa di interessante, come ad esempio Zaza, che ha giocato un'eccellente partita da prima punta, e sappiamo bene come questo sia un po' l'anello debole della catena azzurra. Siamo una squadra complicata da battere, questo è certo. Sulle competizioni brevi è difficile affrontare l'Italia. Poi è chiaro che in un torneo così breve, che brucia tutto nel giro di un secondo, ogni cosa lascia il tempo che trova. Però intanto ci andiamo con un'Italia che lascia fiducia avrà un nuovo CT oggi. È certo, perché oggi viene scelto il sostituto di Conte, che in realtà è stato già scelto, no? Scelto da tempo, al di là delle manfrine e della pretattica. Sarà Ventura, ex allenatore del Torino, avrà un biennale da 1.300.000 di euro, ben lontanissimo dall'altra parte della luna rispetto ai 4.500.000 più premi di Antonio Conte, ma che erano garantiti, lo ricordiamo, dagli sponsor. Insomma, un CT più a misura d'uomo o più a misura di calcio italiano, se vogliamo. Comunque aspettiamo l'annuncio ufficiale di Ventura, nuovo commissario tecnico della nazionale, e mi sembra la scelta giusta prima di partire per un europeo, perché sarebbe sbagliato lasciare tutto nell'incertezza. Allora, grazie Carlo, ti ritroviamo come sempre dopo le 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Oggi andremo a Platì, provincia di Reggio Calabria, che ha finalmente un sindaco dopo 10 anni, del quale però la commissione antimafia dice ha rapporti di affinità con esponenti di vertice della cosca locale, e parleremo con lui e gli chiederemo conto di tutto questo. Parleremo con Valerio Ferrari, che è un altro sindaco, è il sindaco di Terzorio, appena eletto, un paese di 150-180 abitanti, però la cosa divertente è che è un giovane, ha 23 anni, e vogliamo sentire che cosa ci fa un ragazzo di 23 anni a Terzorio a fare il sindaco. E poi a Rimini, perché è stata varata un'ordinanza anti-alcol, diciamo così, durissima, nel senso che si possono vendere solamente bevande calde, questo per scoraggiare la vendita da parte dei negozi. Ne parleremo con l'assessore. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Silvio Berlusconi, ricoverato per uno scompenso cardiaco, delle amministrative, abbiamo fatto un po' di conti, abbiamo raccontato di Totti che dice che è a favore di chi è a favore delle Olimpiadi, quindi sostanzialmente di Roberto Giachetti, abbiamo parlato dell'Istat che rilancia l'allarme sulla crescita, abbiamo parlato dell'inchiesta di Brescia che ha portato a fermare una donna, un'italiana che voleva partire per la Siria per combattere con l'ISIS. Adesso iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia e lo iniziamo da Rimini. Saluto l'assessore alle attività economiche, politiche della sicurezza e legalità di Rimini, Jamil Zadegolvad, spero di aver detto giusto. Buongiorno, benvenuto assessore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, per parlare di cosa? Per parlare di un'ordinanza che è stata varata dal Comune di Rimini, ne dà notizia oggi il Corriere della Sera. Gli esercenti avevano fatto ricorso nei giorni scorsi, il ricorso è stato respinto, e questa ordinanza prevede in sostanza che i negozianti in una quarantina tra piazze e vie non possano vendere bevande fredde, ho capito bene? Esatto, più che bevande parliamo di alcolici refrigerati. Noi abbiamo voluto far fronte ad un fenomeno che nel corso degli anni è sempre diventato più manifesto, più evidente, che è il proliferare di mini market, che più che mini market sono diventati alcohol market, perché hanno il loro core business nella vendita di alcolici. Sì. E quindi ecco, un fenomeno che tra l'altro vede molti turisti, soprattutto giovani d'estate, approvvigionarsi da questi esercenti con alcolici a 99 centesimi, e quindi un abuso di alcol abbiamo riscontrato davvero importante. Ma pensa davvero che si risolva così? Non potevate semplicemente, non lo so, impedirgli di venderlo in certi orari del giorno? Molte città lo fanno, per esempio, Ma noi ci siamo posti proprio questa tematica: se limitare l'orario oppure se vietare tout court la possibilità di detenere nei refrigeratori degli alcolici. In questo modo il provvedimento secondo noi è molto più efficace e sono molto più semplici i controlli anche da parte delle forze dell'ordine. Nel verificare il rispetto dell'ordinanza. Oddio, ci sono sempre cose che non si bevono fredde, tipo la grappa, non lo so. Cioè, se si mettono tutti a vendere grappa è un'ordinanza inutile o no? Verissimo, però io credo che, come dire, l'utenza chieda soprattutto birre fredde. Abbiamo visto vodka fredde anche, chiaramente la birra calda non piace, penso, a nessuno. Ordinanza in vigore fino al 15 di settembre. Devo dire che fa un po' impressione il fatto che tutto questo avvenga a Rimini, perché noi colleghiamo ovviamente quel tratto di Riviera Adriatica a un momento di grande vita, di movida, come si dice, una parola che non mi piace, però c'è, viene utilizzata e quindi la uso, così ci capiamo tutti quanti. E quindi, non lo so, colpisce un po'. Noi siamo anche come giunta, come impostazione, tutt'altro che proibizionisti o bacchettoni. Riteniamo che però determinate situazioni che si sono riscontrate anche solo un mese fa, cioè gruppi di studenti che sono venuti a Rimini e già nel pomeriggio giravano per la città in zona mare ubriachi, ecco, questo fosse un fenomeno da contrastare. E pensiamo che questo provvedimento possa avere efficacia. Senta, ci sono già degli ascoltatori che ci scrivono su WhatsApp: domani tutti a vendere ghiaccio a Rimini come cent'anni fa. Oddio, gli escamotaggi. Cosa fate? Vieterete anche la vendita di ghiaccio? Beh, è chiaro che noi abbiamo previsto nell'ordinanza che è vietato qualsiasi forma di refrigerazione, per cui non solo nel frigorifero, ma anche una vendita associata del ghiaccio è comunque una forma di refrigerazione. Voglio dire, potrà continuare a bere alcolici a Rimini come ritengo, nonostante tutto, che sia giusto che sia, ma nelle forme dovute e consone che ci sono un po' in tutto il mondo. Va bene, vedremo come andrà durante l'estate questa ordinanza, se riuscirete a farla rispettare. Multe tra i 300 e i 500 euro. Intanto la ringrazio, assessore alle attività economiche e politiche della sicurezza e legalità di Rimini, Jamil Zadegolvad. Grazie ancora e le auguro ovviamente un buon lavoro. Rosario Sergi. Grazie a voi. Grazie. Rosario Sergi, sindaco di Platì, buongiorno. Buongiorno a lei, alla redazione, a tutti i radioascoltatori. I radioascoltatori, bravissimo, bravissimo. Allora, Rosario Sergi, sindaco di Platì, città che nella provincia di Reggio Calabria sempre nota alle cronache per essere ad alta densità andranghetistica, è stata senza sindaco per 10 anni, perché prima è stata commissariata per questioni di mafia e poi perché non si presentava nessuno alle elezioni, sostanzialmente. La faccio molto semplice, poi è un po' diverso. Finalmente è un sindaco, è lei, Rosario Sergi, e però su di lei si è appuntata l'attenzione della Commissione Antimafia, la quale dice lei ha rapporti di affinità e quindi di parentela con esponenti della cosca locale. Che dice? Allora, premesso che non è 10 anni che non abbiamo un sindaco, ma bensì nel 2009 c'è stata delle elezioni e il sindaco è rimasto in carica fino al 2011, per cui non sono 10 anni. Un intercorso di due anni, prego. Troppo lungo. Poi io volevo ricordare a tutti i radioascoltatori, anche a chi ci ascolta, anche agli opinionisti e quant'altro, che è una semplificazione un pochettino questa qua, che non deve essere riversata su una comunità giusto perché è una comunità piccola, e quindi queste situazioni credo che non siano. Quello che bisogna un attimino prendere in considerazione è l'alta affluenza alle urne, che è stata del 50,16%. E quindi questa è una volontà popolare molto ampia. Nello stesso tempo vorrei ricordare a tutti che esiste l'articolo 48 della Costituzione, che stabilisce quelli che sono i limiti dell'espressione del voto, e inviterei tutti ad andare a approfondire questo aspetto. Ed esiste l'articolo 27 della Costituzione, per cui io rappresento anche nel mio piccolo, nella mia piccola comunità, anche questa carta costituzionale che come tutti i sindaci, che ci hanno trasmesso. Quindi, per cui, più di dirle questo, non ho cosa dirle. Io naturalmente non ho non voglio aprire nessuna fronte di polemica, anzi io ritengo in questo momento Platì abbia necessità di essere sostenuta ed aiutata anche dalle istituzioni per poter andare avanti. La popolazione ha dimostrato che vuole un sindaco, che vuole un'amministrazione comunale. Sì, e quindi però, ritengo che però mi scusi Sergi, lei non può ignorare. È stato un grande ritorno alla democrazia. E quindi guardi, io non voglio aprire, le ripeto, nessun fronte di polemiche. Beh, però non può, mi scusi Sergi, però non si può ignorare quello che dice l'antimafia, insomma, no? Allora, guardi, io le dico questo, io con l'antimafia stamattina ho chiamato la segreteria dell'onorevole Bindi per avere un appuntamento. Sì. Quindi più di questo, anche per verificare un attimino quali sono stati i presupposti di questa relazione che io ancora in questo momento non ho. Sì. Io non sono nelle condizioni di leggere quello che l'ho visto sui giornali. E lo sto diciamo ascoltando anche nelle varie trasmissioni televisive, però ufficialmente io in questo momento non ho nessun atto ufficiale prodotto dalla commissione, quindi io ritengo che sia opportuno che ci sia anche da parte nostra un'attività verso quelle che sono state i lavori dell'attività dei lavori della commissione, quindi penso che sia opportuno, giusto e doveroso che ci sia anche un incontro in questi termini. Senta Sergi, ma lei questi rapporti di parentela con i Barbaro ce li ha oppure no? Guardi, le sto dicendo, io non voglio aprire nessun fronte di polemica. Ma non è una polemica, è una domanda, sulla sostanza. Vorrei anche che in questo momento i mass media si rendessero conto che in una situazione in cui di emergenza che c'è stata in questi anni, si ritorni al voto, e io mi piacerebbe che parlassimo pure di quelle che sono quello che vorrei fare io per questa comunità. Benissimo. Guardi, allora guardi, adesso glielo faccio dire. Guardi, dottore, lei si chiama? Io mi chiamo Spezia. Simone Spezia. Guarda, lei da dove ci sta chiamando? Da Milano. Dottore Spezia, io la inviterei a venire a Platì e prima di dare giudizi sulle persone anche di parlare con Aspetta, all'opinione pubblica, non sto dicendo a lei, io sto dicendo all'opinione pubblica, perché è molto semplicistica e molto anche l'applicazione di un pregiudizio lombrosiano che in questo momento ripercorre tutte le Ma non è lombrosiano, perché non è che stiamo guardando le foto degli abitanti di Platì, cioè, allora mi scusi, guardi, facciamo una cosa Sergi, allora parliamo di questo. Platì, domanda. Dottore, Platì, guardi, no, le posso fare una domanda io? Allora sono io che l'ha intervistato. Allora, Sergi, sono io che l'ha intervistato. Allora, l'articolo 27 della Costituzione sancisce allora quello che sono io, guardi dottore. Allora, non le faccio una domanda su di lei. Allora, non le faccio una domanda su di lei. Abbiamo abbassato il volume, vediamo se sta continuando a parlare. Lo chiedo a Paolo Corleoni in regia. Sta continuando a parlare, però le dico, in questo momento non la sento. Benissimo, perché ho una domanda da farle. Che cosa vuole fare? Allora, domanda: a Platì c'è un problema di 'ndrangheta? Punto primo, è la prima domanda. La seconda domanda: che cosa intende fare per risolverlo nel caso lei verifichi che ci sia? Prego. Allora, le sto dicendo, allora, la criminalità esiste più o meno organizzata, esiste a Platì come esiste a Roma, come esiste in tutte le parti d'Italia. Però diciamo che questa questione diventa una questione prettamente politica, perché cosa accade? Che mentre in una acclarata situazione di mafia capitale non accade nulla e le dimissioni del sindaco chiudono con una situazione tombale anche tutto il progresso che è stato accertato dagli organi inquirenti, quindi ci sono state arresti e tutto quell'altro, eccetera eccetera. Platì praticamente un piccolo paesino dove non credo che ci possano essere tali e tanti interessi da spingere la criminalità ad avere delle mire, non so su quale cosa. Comunque questo qua poi lo accerteremo nell'arco della nostra amministrazione. Quindi la situazione a Platì, dice lei, non è grave. Quindi la domanda, no. Vorrei completare. Se lei non mi fa completare. Allora, ritengo che non ci sia, lo verificheremo durante il mio mandato elettorale. Stia sicuro che nel momento in cui io verifico che ci possa essere qualche ingerenza o per meglio dire qualche ipotesi di reato, sarò il primo a denunciarlo. Quindi al momento lei non vede infiltrazioni dell'andrangheta a Platì e nel comune? In questo momento assolutamente no. C'è stata una gestione commissariale che ci ha preceduto. Sì. Io ieri ho avuto l'incontro con il commissario dottore Luca Rotondi, che mi ha trasmesso tutto quelle che sono stati gli atti che lui ha messo in opera e con le varie attività che sono state poste in essere dallo stesso, e mi ha dato contezza di quelle che sono le cose da fare e quelle che bisogna completare, per cui Le ripeto, sì. Lui è vissuto qua 2 anni, per cui se magari lei questa domanda la fa a lui. Va bene, gireremo la domanda, gireremo la domanda anche a lui. Intanto io la ringrazio, la ringrazio. Grazie Rosario Sergi, sindaco di Platì, per essere stato con noi. Come vedete abbiamo fatto anche parlare di quello che c'è a Platì e di quello che si potrebbe fare, soprattutto da questo punto di vista. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Come sempre, nella seconda parte invece parliamo di un altro sindaco, uno che ha 23 anni, sindaco di un paesino 180 abitanti, appena eletto. Una chiacchierata veloce, giusto per sentire cosa ha intenzione di fare. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: Berlusconi ricoverato per uno scompenso cardiaco, accertamenti ma non sarebbe previsto un intervento. Su Roma parla Totti, io a favore di chi è a favore delle Olimpiadi, ne parla anche Marchini, staremo con chi condivide il programma. L'Istat rilancia l'allarme crescita, è moderata ma rallenterà a breve. Voleva partire per la Siria, fermata un'italiana di poco più di 30 anni a Brescia. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Allora, volevamo sentire Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio, ma ci manca il tempo, 23 anni, probabilmente il più giovane sindaco eletto in questa tornata, così come dovevamo sentire Rita Semino, 81 anni, il sindaco più anziano eletta a Gavi. Dunque, dato che ci manca il tempo, dobbiamo dare la linea America 24 e poi ci risentiamo per i saluti e poi c'è il traffico, autotrasporti e via dicendo, la puntata è un po' più corta, dunque rimandiamo queste due interviste, due piccole interviste a domani.